Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno e buona domenica a quanti ci ascoltano. Abbiamo cominciato con queste note della Carmen per salutare l'ospite di oggi. L'ospite che saluto subito è Giorgio Squinzi. Buongiorno, presidente Squinzi. Buongiorno. Giorgio Squinzi, presidente di MAPEI, presidente di Federchimica. E abbiamo iniziato con le note della Carmen perché è un grande appassionato di lirica, poi ce lo dirà, ed è anche uno dei soci fondatori degli Amici della Scala, mi sembra. Sì, della Fondazione della Scala. Della Fondazione della Scala. E anche come MAPEI ha partecipato sia ai lavori ovviamente di ristrutturazione della Scala e proprio in questi giorni anche ai lavori che si sono conclusi del San Carlo di Napoli, che si ha inaugurato la stagione proprio nei giorni scorsi. Allora, nonché anche abbiamo dato un contributo forse il più importante in termini tecnici alla ricostruzione del Petruzzelli di Bari, che è stato anche questo inaugurato recentemente il 6 dicembre con Turandot. Quindi una grande attenzione alla musica, una grande attenzione alla lirica, una grande attenzione anche all'arte. Proprio nei giorni scorsi avete partecipato anche alla ristrutturazione del De Chirico dei giardini. I misteriosi di De Chirico alla Triennale. Sì. Alla Triennale di Milano, un'opera recente, un'opera contemporanea. Ecco, abbiamo fatto subito un'incursione nell'arte per presentare il nostro ospite di oggi, però vorrei tornare con Giorgio Squinzi un po' alle sue origini. Giorgio Squinzi è innanzitutto un imprenditore chimico, un imprenditore della chimica, un imprenditore di successo. Con la MAPEI è presente non solo nella chimica ma anche in tante altre iniziative. Poi parleremo anche di ciclismo, parleremo anche di calcio, parleremo anche di musica, ma cominciamo dalla chimica. Come è nata la MAPEI, come è nato Giorgio Squinzi come imprenditore? Ma diciamo che la MAPEI è nata da mio padre Rodolfo, che l'ha fondata nel 1937, anche questa è una storia legata un po' alla visibilità che MAPEI ha avuto in questi ultimi decenni. Mio padre era un corridore ciclista degli anni 20 e inizio anni 30 e il suo patron dell'epoca a un certo punto gli disse: dai, vieni a lavorare per me così ti do del tempo per poterti allenare. Mio padre andò a lavorare per questo signore che neanche a farlo apposta produceva intonaci colorati per le facciate, colle di cemento e caseina per incollare il sughero, i materiali che si usavano allora in edilizia. Imparò il mestiere e nel 1937 si mise in proprio dando il via alla MAPEI. MAPEI cosa vuol dire come marchio? Materiali ausiliari per edilizia e industria. Ah, quindi un nome, una sigla che poi è entrato come nome proprio quasi. Esatto. E quindi è diventato un sinonimo di un'azienda, un'azienda che poi con gli anni è cresciuta. Adesso a che punto è della crescita? Ma dunque, noi oggi siamo un'azienda globale, nel senso che operiamo con 63 società consociate, controllate direttamente da noi, produciamo in 56 stabilimenti in 25 paesi diversi nei 5 continenti, quindi siamo un'azienda, si può senz'altro definire globale. Siamo il numero uno mondiale di tutto ciò che serve per mettere in opera pavimenti e rivestimenti di qualunque tipo. Siamo il numero uno mondiale degli adesivi per edilizia e siamo nel gruppo di test, diciamo tra i primi tre, nella chimica per l'edilizia. Quindi un'azienda in un certo modo tradizionale, che fa prodotti tradizionali ma che ha che fa un grande sforzo per l'innovazione, per la ricerca. Sì, noi questo è proprio nel nostro DNA. Infatti, quando mi chiedono di sintetizzare un po' la formula MAPEI, io dico specializzazione, e c'è molta focalizzazione su quello che noi facciamo, 100% per l'edilizia, internazionalizzazione, ho già detto le cifre, e forte impegno in ricerca e sviluppo. Io stesso sono stato per tanti anni responsabile della ricerca del gruppo e noi investiamo circa il 5% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo, che significa su un fatturato di circa 1 miliardo e 700 milioni, più di 80 milioni, e questo in 10 laboratori sparsi per il mondo, e abbiamo circa 700 persone che si occupano di ricerca. Comunque il cuore dell'azienda resta in Italia? Sì, assolutamente sì, resta in Italia, resta a Milano. Noi siamo una famiglia milanese, e abbiamo il cuore e la mente in Italia sicuramente. Quindi i geni di suo padre, i geni della chimica, ma anche i geni del ciclismo e anche quelli della lirica, mi sembra, perché anche suo padre era un appassionato di lirica. Esatto, io ricordo che mio padre mi portò per la prima volta alla Scala il primo gennaio del 1956 a vedere una norma con Maria Callas, Mario Del Monaco e Giulietta Simeonato, e da lì mi sono appassionato anch'io. I suoi figli? Ciclismo e lirica? E i miei figli, sì, abbastanza, anche se non hanno certamente lo stesso impeto che ho io per questo. I tempi cambiano evidentemente. Torniamo un attimo all'azienda. Quali sono gli ultimi impianti, stabilimenti, sedi che avete aperto all'estero? Ma dunque, negli ultimi 15 mesi abbiamo fatto sia una serie di acquisizioni, abbiamo acquisito un'azienda che si chiama Polyglass, che è italiana ma che opera con 2 stabilimenti in Italia e 3 stabilimenti negli Stati Uniti, e che produce membrane bituminose e adesso anche in materie plastiche sintetiche per le impermeabilizzazioni soprattutto dei tetti. Abbiamo acquisito un'azienda negli Stati Uniti, a Dalton, in Georgia, dove si producono tutte le moquette americane, proprio per adesivi per la posa delle moquette. Abbiamo acquisito un'azienda in Austria che si chiama Beton Technique, che è specializzata negli additivi per il calcestruzzo, nelle aree di lingua tedesca. Abbiamo acquisito dal primo di dicembre uno stabilimento in Bulgaria, a Ruse, sul confine con la Romania, da dove intendiamo poi rifornire questi 2 paesi in maniera diretta. E quindi lei praticamente... E poi abbiamo anche fatto una serie di investimenti con stabilimenti costruiti greenfield, in modo particolare uno a Dubai che è entrato in funzione a metà dell'anno scorso, un altro in Russia che è entrato anche lui in funzione l'anno scorso, e uno in Grecia che sta partendo in questi giorni. Allora, una domanda prima di concludere la prima parte. Lei ogni anno fa praticamente il giro del mondo. Al di là delle esigenze aziendali, qual è il posto dove le piace di più andare? Ma io sono, la mia generazione è nata un po' col mito degli Stati Uniti. Io negli Stati Uniti mi sento a casa. Noi negli Stati Uniti abbiamo 11 stabilimenti produttivi e abbiamo il nostro headquarter in Florida. Diciamo che quando vado in Florida mi sento abbastanza a casa. Incontri. Sempre la Carmen di Bizet, che ha aperto la stagione lirica della Scala di Milano per introdurre Giorgio Squinzi, presidente di Mapei, grande sponsor della Scala. Abbiamo concluso la prima parte parlando degli Stati Uniti, parlando della Florida. Che cosa l'attira di più negli Stati Uniti? Quali sono le differenze maggiori che vede rispetto alla società italiana, in positivo ma anche magari in negativo? Ma soprattutto direi la libertà in campo economico ed imprenditoriale. Noi abbiamo iniziato nel Nord America con uno stabilimento nel 1978 in Canada. Avevamo fornito gli adesivi per la posa delle piste olimpiche a Montreal per le Olimpiadi del 76 a un'azienda italiana, un'altra azienda italiana, la Mondo, che poi ha fatto tutte le altre piste olimpiche. E mi resi conto del potenziale che c'era già in Canada, soprattutto lì nel Quebec. Da qui siamo partiti, abbiamo costruito una serie di stabilimenti greenfield e abbiamo fatto delle acquisizioni, per cui la nostra struttura oggi nel Nord America è composta da 11 stabilimenti negli Stati Uniti, 4 in Canada e 1 a Porto Rico. E nel giro di pochi anni, cosa assolutamente impensabile sul mercato europeo, compreso anche quello italiano, noi in giro di 3 anni siamo diventati leader di di mercato in Canada e nel giro di 6-7 anni negli Stati Uniti. Questo dimostra l'estrema apertura, l'estrema disponibilità di opportunità per chi si affaccia su questi mercati con idee, con capacità, con energie fresche e voglia di riuscire. Riesce ad andare in bicicletta anche quando va negli Stati Uniti? Sì, in Florida, anche se la Florida non è particolarmente interessante perché è piatta, non si può fare altro che andare avanti e indietro sul lungomare. Non è la Brianza. Non è la Brianza, non sono le nostre montagne delle Prealpi e dello Stelvio. Forse lei sa che anche quest'anno ogni anno noi organizziamo nella seconda domenica di luglio questo Mapei Day a Bormio, che termina con una scalata di migliaia di persone in bici, a piedi, con gli ski roller, in tutti i modi, da Bormio allo Stelvio. Il Mapei Day, no? Il Mapei Day, esattamente. E anche quest'anno sarà... Quest'anno ci sarà il Mapei Day l'11 di luglio. L'11 di luglio, quindi l'appuntamento l'11 di luglio in bicicletta. Comunque in bicicletta per lei è una consuetudine la domenica mattina, andare per sempre, la Brianza. Sempre. Qual è il suo itinerario preferito, partendo da casa sua, immagino? Ce ne sono tantissimi. Certo il triangolo lariano, cioè la zona tra Como e Lecco, col Ghisallo, la Colma di Sormano, questi sono gli impegnative, cose sono abbastanza, abbastanza impegnative. Sì, ecco, sì. Lei nel ciclismo ha avuto una grande stagione, aveva anche una squadra che poi per vicende un po' legate al doping ha deciso di abbandonare. Noi dal 1994 al 2002 abbiamo avuto quella che è stata nelle classifiche la prima squadra al mondo. Siamo la squadra che ha vinto di più nella storia del ciclismo, 654 vittorie in 9 stagioni. Abbiamo marcato un'epoca nel ciclismo. Siamo usciti nel 2002 quando ci siamo resi conto che il problema del doping, la piaga del doping, era praticamente incontornabile e abbiamo preso una decisione dolorosa. Il mio cuore è rimasto nel ciclismo, però era inevitabile prendere questa decisione. Però è ancora nel ciclismo, abbiamo detto, per il Mapei Day allo Stelvio. Avete anche un laboratorio medico molto avanzato. Sì, noi abbiamo il Mapei Sport a Castellanza, che è un laboratorio di ricerca per lo sport con una forte focalizzazione al ciclismo. Ricordo che per esempio nella stagione 2009, che continuerà anche nel 2010, abbiamo seguito alcuni atleti di vertice, tra cui Ivan Basso, che per il suo rientro alle corse si è affidato in pieno da 2 anni al nostro centro di Castellanza, e il campione del mondo Cadel Evans, che peraltro era uno dei giovani, era un po' l'alfiere della nostra visione di ciclismo pulito nel 2002. Che è diventato campione del mondo, campione poi del mondo quest'anno. A Mendrisio. Però nel suo ufficio c'è anche un pallone da calcio. Sì, c'è un pallone di calcio. Beh, noi siamo stati il main sponsor della nazionale italiana nel 2006 in Germania. Personalmente sono un grande tifoso del Milan da fin da bambino, però anche per una questione, un'operazione di simpatia, di ringraziamento nei confronti del distretto ceramico di Sassuolo, che ci ha dato veramente una grande mano a diventare un'azienda globale, perché le piastrelle italiane sono state in tutto il mondo e sono in tutto il mondo, e abbiamo la proprietà del Sassuolo. L'abbiamo assunta 6-7 anni fa, quando il Sassuolo era ormai retrocesso in promozione. In questi 6-7 anni l'abbiamo portato dalla promozione alla Serie B, e se guardiamo la classifica direi che abbiamo delle buone possibilità di andare in Serie A l'anno prossimo. Quindi l'anno prossimo vedremo Sassuolo-Milan, ma il suo cuore a quel punto? No, veramente io, il sogno della mia vita è un Sassuolo-Inter, dove il Sassuolo batte l'Inter a San Siro. Dato che non ci riesce il Milan. Esatto. Ecco, quindi il ciclismo, il calcio, la lirica, quali altre passioni? Sono già abbastanza? Passioni sono già abbastanza, e l'altra passione evidentemente è quello che faccio. Io credo moltissimo in quello che faccio, come me ci crede la mia famiglia. La nostra è un'azienda globale, però è un'azienda dove la famiglia recita un ruolo importante. Ho mia moglie che è il capo di tutto il marketing operativo a livello globale. Abbiamo 2 figli, un maschio che ha seguito un po' la mia strada come chimico, è laureato in chimica industriale ed è ora il coordinatore di tutta la ricerca del gruppo a livello mondiale, ha 38 anni. E una figlia che invece è economista e che si occupa della pianificazione strategica, in modo particolare di tutte le operazioni di acquisizioni, di M&A, e le start-up delle nuove compagnie, quindi, aziende. Una famiglia molto unita, che guarda molto in avanti e che è riuscita a dividersi anche i ruoli, cercando appunto di far crescere questa azienda. Assolutamente sì, siamo molto compatti e andiamo con molta determinazione verso il futuro. E questo le lascia anche un po' di tempo per fare anche il presidente di Federchimica, cioè delle imprese chimiche italiane. Qui non possiamo non parlare un po' di a che punto è l'economia italiana. Sì, certamente. Sto attualmente compiendo il sesto mandato come presidente di Federchimica, sono mandati biennali. Direi che questa opportunità di essere presidente di Federchimica sicuramente mi ha molto aperto la mente, perché così mi ha fatto capire più da vicino il mondo imprenditoriale e tutte le problematiche che circondano gli imprenditori italiani e che, devo dire la verità, purtroppo ne frenano spesso l'azione. Ma a che punto siamo come economia? Si parla ormai di ripresa, ripresina, segnali di ripresa, accenni di ripresa. C'è veramente questa ripresa a fine gennaio 2010? Ma vede, nell'ultima parte dell'anno sicuramente si sono visti dei segnali positivi di crescita, siamo ritornati su livelli positivi di crescita rispetto agli anni precedenti. Questo mese di gennaio, secondo me, i segnali non sono buonissimi, però ritengo anche che in questo momento stia giocando il fattore meteorologico. Abbiamo avuto un inverno molto duro e questo sta facendo rallentare un po' tutte le attività. Penso che ci sarà un miglioramento quest'anno rispetto al 2009, però non mi sembra di poter dire che ci sarà una ripresa netta, anche perché ritengo che la ripresa netta possa venire soprattutto dagli Stati Uniti, e negli Stati Uniti i nostri segnali sono di dopo aver strisciato sul fondo per parecchi mesi, si vede sì forse un minimo di ripresa, ma niente di eclatante. Ecco, uno dei suoi temi in questi anni in cui è stato presidente di Federchimica è stato quello della semplificazione, del tentativo di dare maggiore libertà alle imprese. È un tentativo che continua, ovviamente. Ma diciamo che la semplificazione non è poi vista nella direzione di dare maggiore libertà alle imprese, perché quello che noi, in modo particolare come Federchimica, non è un abbassamento degli oneri, di avere degli sconti per le autorizzazioni, per i permessi, eccetera. Quello che noi chiediamo è una semplificazione normativa burocratica. Non dimentichiamo che nel nostro complesso di leggi e di regolamenti c'è tutto e il contrario di tutto, e quindi questo può essere interpretato in maniera molto diversa da una regione all'altra, da un posto da un comune all'altro, quindi una situazione veramente difficilissima. Non dimentichiamo che, se posso portare l'esperienza del gruppo Mapei, noi in Italia abbiamo avuto almeno un paio di casi in cui per ampliamento di stabilimenti abbiamo dovuto aspettare anche 8 anni. All'estero, costruzione di nuovi stabilimenti, i tempi massimi di attesa sono di 90 giorni per avere un'opinione se si può fare o non si può fare. Ecco, in Italia il vostro appunto impegno su questo fronte ha d'altra parte un altro impegno sul fronte della sicurezza, della trasparenza, dell'informazione. Anche su questo Federchimica ha fatto un grosso sforzo. Federchimica ha fatto un grandissimo sforzo. Ricordo che Federchimica ha aderito dal 1992 al progetto internazionale Responsible Care. Oggi circa 2/3 della produzione italiana sono portati avanti da aziende che hanno aderito al programma Responsible. Questo ci obbliga ad essere totalmente trasparenti nei confronti dell'opinione pubblica. Ogni anno pubblichiamo tutti i dati, gli investimenti, i risultati, eccetera. Oggi quello che si può dire è che la chimica è il settore, insieme con le aziende petrolifere, che ha la più bassa incidenza di infortuni professionali e di malattie professionali. E oltre a questo, la chimica è anche stata molto virtuosa in termini di emissioni di CO2. Noi abbiamo controllato moltissimo i rendimenti energetici all'interno delle nostre aziende, abbiamo migliorato le emissioni di CO2. Noi siamo già in linea con i parametri di Kyoto, anzi abbiamo un vantaggio su quelli che erano stati gli impegni presi per Kyoto. Siamo in conclusione, Giorgio Squinzi, potremmo continuare a lungo, dato i suoi interessi, la sua esperienza e soprattutto la sua passione per quello che fa. Un messaggio guardando in avanti, cosa pensa di poter dire all'economia italiana, quanti ci ascoltano, per guardare un po' in avanti in maniera costruttiva, magari anche nel campo del ciclismo o della lirica? Ma vede, io credo che noi dobbiamo credere in quello che facciamo. Noi siamo un paese manifatturiero, non possiamo prescindere dalla nostra connotazione di paese manifatturiero. In Europa ci sono due paesi con una connotazione fortemente manifatturiera, sono la Germania e l'Italia. Il futuro dell'Italia può esserci solo se continueremo ad essere competitivi sul piano manifatturiero. Questo è un qualche cosa che i nostri governanti non devono dimenticare e che noi imprenditori non dobbiamo dimenticare e non dobbiamo farci distrarre da diversificazioni di tipo finanziario, eccetera, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare a fondo. E pedalare. Grazie a Giorgio Squinzi, grazie a quanti ci hanno seguito, grazie ad Anita Panizza in redazione, a Peter Bascapè in regia. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, è disponibile sul sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.